storie italiane. Jack lo sciocco. Ciao, principessa. Io posso cavalcare qualsiasi cavallo. Oh, wow. Sono così entusiasta. E perché un principe cavaliere vuole sposarmi? Beh, tu sei una principessa. Tutti questi gioielli, questo palazzo, le ricchezze, tutto sarà tuo, non è vero? Oh, gli avevo chiesto di non dirlo. Oh, che romantico! È così, mia principessa. Chiedo la tua mano in matrimonio. Solo la mia mano? Quindi vuol dire che il resto di me può rimanere singolo, allora? Assolutamente! Cosa? Principessa, questa è la parte in cui dici sì! Questa è la parte in cui senti la mia voce dire no! No! Aspetta un minuto! Oh, Hazel! Tu sei la figlia del re! Puoi dire che sono tua figlia, padre. È così semplice da ricordare. Ah, non so più cosa fare con te. Devi sposare qualcuno. Hai incontrato tanti giovani e nobili uomini. Oh, padre, non voglio sposare qualcuno che vuole sposare la tua corona. Voglio sposare qualcuno che vuole sposare me. Qualcuno a cui piaccio per quello che sono, che mi faccia ridere. Sono stanca di seguire le tue regole. Regole per il matrimonio, per uscire, parlare, sedersi. Ah! Ma è così che dovrebbe essere una principessa. Ma non è tutto. Questi uomini nobili che porti qui sono così pretenziosi. Voglio qualcuno che sia semplicemente onesto. Innocente come un bambino. Un'anima pura. E soprattutto che non si vergogni di essere se stesso. Mi sento ingabbiata qui, padre. Voglio qualcuno che sia divertente e che mi faccia ballare. Oh, dovrò quindi trovare un clown per te. Mr. Duncan, chiama il prossimo pretendente. Vediamo. Mie scuse, Vostra Altezza, ma questo è l'ultimo. La principessa ha incontrato tutti i nobili pretendenti. Cosa? Come può essere? Beh, mi chiedo la stessa cosa, Vostra Altezza. Dopotutto, è passato solo un mese dal primo incontro. Oh! Mi piace il tuo senso dell'umorismo. Il piacere è mio, principessa. Ti piacerebbe sentire una barzelletta? Sono un uomo piuttosto divertente. Cosa? Oh no, concentriamoci sul problema principale. Chi chiameremo ora se tutti i nobili pretendenti sono stati respinti? Temo che la posizione sia aperta ai civili. Oddio! E che altro deve accadere ora? Va bene allora, Duncan. Vada per i civili. State bene attenti. Dato che la principessa ha respinto tutti i pretendenti nobili, tocca adesso ai civili di venire a palazzo per mettersi alla prova. Da notare che solo quelli educati e ben curati potranno varcare il cancello. Domani la principessa sceglierà suo marito. Alla prossima città, per favore. Avete sentito? Questo è un momento magico. Immaginate la ricchezza che avremo se la principessa sceglierà uno di voi. Entrambi i miei figli sono educati e curati, niente meno che da me. Oh, certo, padre. Educato, dice. Conosco le regole di conservazione dei libri come il palmo della mia mano. E io conosco il latino come conosco... ogni altra lingua? So anche cucire. Sensibili e belli, intendiamoci. Oh, assolutamente. Entrambi i miei figli sono belli oltre ogni dubbio. Preparatevi. entro domani sera uno di voi sarà sicuramente il marito della principessa. Portami sulla luna! Ah! Forse mi hai sentito male! Sulla luna, sciocco! Ma anche questo è divertente! Torna qui! Oh, miei magnifici figli! Andate a prendermi una principessa! Sì, padre! Andiamo, Eric! Il mio vestito! Oh, ti darò una lezione per questo! Oh, dove stanno andando i miei fratelli? Qualcosa di speciale? Sono contento che tu l'abbia notato. Sembro vestito per qualcosa di speciale. No? No, ho chiesto perché i tuoi capelli hanno qualcosa di buffo. Ah, mi rovini il vestito. Stiamo facendo tardi per andare a palazzo. Oh, perché a palazzo? Dimmi. Jack, andiamo. Non vogliamo rovinare questo giorno a causa tua. No, prima dimmi perché. Dai, sullo tuo fratello, no? Santo cielo, sì, lo sei. Ecco perché devi farti da parte e lasciare che i tuoi fratelli vadano a conquistare il cuore della principessa. Oggi sceglierà il suo futuro marito. Scendi adesso! Accidenti, andiamo, Eric. Addio, figli miei! Oh, padre, per favore, lascia andare anche me! Per favore, per favore! E per cosa? Per vincere il cuore della principessa! Lasciami vincere, lasciami vincere! Ma è solo una metafora, sciocco! In realtà non devi conquistare il suo cuore! Lei deve scegliere te! E lei lo farà! Non dici sempre che devo trovare il modo di sistemarmi? Intendevo mentalmente. Per favore, padre, lasciami andare. Ah, va bene, alzati e levati dai piedi. Allora, Hans, pensi che dovrei cominciare a cucire quando entro nel palazzo? No, fratello, questa è la tua carta vincente. Non mostrare tutti i tuoi trucchi all'inizio. Inizia con la biblioteconomia. Questo la farà subito cadere ai tuoi piedi. Oh, ciao fratelli! Oh, un frutto, esattamente quello di cui ho bisogno. Oh, vedo che hai imparato a prepararti la cena da solo, fratello. Urrà! Oh, sei così divertente. Oh, no, questo è per la mia futura moglie, la principessa. Cosa? Cosa? Tu vieni a palazzo? Oh sì, certo! È lì che si trova la principessa, non è vero? E tu le darai questo? Un frutto marcio? Beh, è scortese presentarsi a palazzo a mani vuote. Giusto. E un frutto marcio è davvero un regalo bellissimo. Tu vai alla grande. Andiamo, fratello, o faremo tardi. Fratelli, guardate cosa ho trovato. Ah, per favore, fa che sia il suo cervello. Una scarpa. Che diamine ha intenzione di fare con quella? Beh, non puoi mai saperlo, potrei averne bisogno per qualcosa. Oh sì, dopotutto la principessa potrebbe aver bisogno di una vecchia scarpa. Che cosa succede se perde le sue costose nuove di zecca? Hai sentito, William? Non ci avevo pensato. Lui è così intelligente. Ma non per molto. Cercherò qualcos'altro. Fratelli, guardate cosa ho trovato. Oh, non di nuovo. Oh, non di nuovo. Guarda. Tieni quella cosa disgustosa lontano da me. Fango? Fango? Cosa c'è di sbagliato in te? Beh, non lo puoi mai sapere. Potrei averne bisogno da qualche parte. Andiamo, fratello. Prima che qualcuno ci veda con lui. Oh, è una gara! Andiamo! Oh, mio Dio, guarda questo! Aspetta, tu! Cosa? Ma io sono un uomo istruito! Le tue scarpe sono fangose. Puoi andartene. Avanti il prossimo! La la la la la la la. Bene, ora dimmi, perché pensi di essere adatto per questo matrimonio? Io sono un uomo e tu sei una donna? Ah, grazie a Dio l'hai chiarito! Stavo pensando di farmi crescere la barba! Beh, è così? Non vorresti la ricchezza allora, giusto? Oh, ma cos'è un re senza la ricchezza? Voglio dire, tuo padre morirà un giorno, giusto? Cosa? Vattene subito! Oh, no! Padre, non vorresti sapere cosa provo? Sì, certo. Cosa provi per lui? No! No? Cosa? No, è proprio necessario. Tutti quelli che vengono respinti vanno giù per il fiume! Il prossimo è il maestro Hans Hemingway. Tra i molti altri talenti, è un letterato latino. Molto bene, allora. Puoi recitarmi una poesia in latino? Beh, io non sono una studiosa di latino come il qui presente maestro Hans, ma presumo che questo non sia latino, vero? Puoi parlare qualsiasi lingua? Oh, bla bla bla, che romantico! Guardie, il prossimo! No! No! Ego mio bracassire al bingo! Cosa ha detto? Era una poesia? Principessa, ha detto che si farà la pipì addosso. Portatelo via subito! No, no, no, no, no, i miei capelli! Il mio vestito! No! Sono annoiata. Posso andare a fare un giro? No, tesoro. Ci sono così tanti altri pretendenti in arrivo. Il prossimo! Il prossimo è maestro Eric Hemingway. È il fratello del maestro Hans Hemingway ed è uno studioso di biblioteconomia. La leggi? La biblioteconomia? È importante conservare i nostri libri. Cosa? Bah, sono già annoiata. Il prossimo? No, aspetta! Non so nuotare, ma so cucire! Fammi cucire! Almeno datemi una ciambella! Questo è omicidio! Oh, sta zitto! L'acqua non è abbastanza profonda da ucciderti! Oh, aspetta! Stupido caprone! Oh, ciao fratello! Cosa stai facendo qui? Non dovevi essere... Jack, dammi una mano! Cosa sta succedendo qui? Guardie, prendeteli! Oh, scusa fratello, devo proprio andare! Aspetta, Jack! No! Guardie, prendeteli! Guardie, no! Chi sei? Oh, ciao! Sono Jack! Indossi un vestito così bello! Chi ha fatto questa meraviglia? Ti va di ballare, mia signora? Ah, assolutamente! Oh, mi sto divertendo così tanto! È fantastico! Santo cielo! Tu chi sei? Esci da questo palazzo in questo istante! No, aspettate! Padre, ho qualcosa da dire! Ho preso la mia decisione! Lo sposerò! Sì? No! Sei bella, ma sono qui per vedere la principessa! Sono così, così dispiaciuto! Guardate intorno! Chi pensi che io sia? Oh, tu sei la principessa! Mi sono innamorato della principessa! Quante probabilità c'erano! Sì, quante possibilità c'erano! Mi pentirò di questo! Bene, ministri, preparate il matrimonio! Mia figlia ha finalmente trovato suo marito! Lo vedi, Hans? Quante probabilità c'erano? Veramente poche, fratello mio. Abbiamo sempre pensato che Jack fosse un pazzo. Ma non lo è, giusto? Ma magari è un pazzo per noi, ma questo non significa che sia un pazzo per tutti. Tutti ci guarderanno in modo diverso. Questa si chiama percezione, fratello. Jack non si è mai vergognato di essere se stesso. In effetti si ama molto. Questo è il modo migliore di essere, io credo. Quando amiamo noi stessi, possiamo finalmente vivere bene. Usciamo dall'acqua. Mi sta prendendo un raffreddore.